stato in America. Ah, Italia, Paolo Rossi. Brasile, ah, Italia, Paolo Rossi. Thailandia, ah, Italia, Paolo Rossi. Commovente, commovente. Paolo Rossi, oggi è un giorno triste, perché muore un pezzo di noi, almeno per chi c'era, un pezzo di giovinezza che ce ne va. Era il simbolo dei mondiali dell'82, con tanta umiltà, tutti quei giocatori, veramente penso che sia stato proprio il mondiale di tutti gli italiani, ma degli italiani veri però, dove c'era il nostro Pertini che esultava al gol, ma guarda, è stato veramente il mondiale bellissimo. Ecco qua, un pezzo dei vostri ricordi, insieme a racconti come quello di un ascoltatore che dice: avevo 15 anni, ero in montagna, in un bar del piccolo paese, eravamo tutti appiccicati a seguire la finale, pieno zeppo di valligiani, bresciani che al finire della partita scatenarono un terremoto di urla, abbracci, tantissima gioia, poi tutti in strada per andare fino ad Edolo, mezz'ora di strada, ape, car, furgoncini, 500, camioncini, motorini, tutti pieni di matti urlanti, ben oltre la reale portata dei mezzi, gente che offriva vino gratis, tuffi nelle fontane. Quello fu appunto il mondiale dell'82, il mondiale di Paolo Rossi, che, come vi abbiamo detto e come avete sentito anche in GR24, purtroppo è scomparso ieri notte a 64 anni. Questa è la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Sono le 7:22 minuti di giovedì 10 dicembre e i titoli dei giornali sono dedicati, anzi se volete continuare con i vostri ricordi di Paolo Rossi sono benvenuti, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, messaggi SMS, messaggi su WhatsApp, come la sentite, come cosa vi ricordate di quel periodo e di quel momento. Solo il Corriere della Sera è riuscito a metterlo in pagina, almeno nelle edizioni che abbiamo noi, addio a Paolo Rossi, l'eroe del Mondiale, del pezzo di Daniele Dallera, ma le aperture dei quotidiani sono in gran parte dedicate ovviamente alle questioni politiche, alle tensioni che attraversano la maggioranza, sia al MES ma il governo Bacilla. È il titolo del Corriere della Sera, con appunto Renzi che attacca e dice: non votiamo questo recovery fund. Il Fatto Quotidiano: Renzi accusa Conte di ciò che faceva lui. Da premier piazzò i suoi commissari ovunque con pieni poteri. Ora i suoi strali antipremier sono applauditi dal centrodestra. La Repubblica, Renzi Conte, il grande duello, ora la crisi è più vicina, è il titolo del Quotidiano. I pugni in task, come task force, è il titolo del Manifesto. Conte quasi fuori è il titolo del Giornale, aria di crisi. Insomma, molti giornali la vedono già fatta e vedono già la crisi per Giuseppe Conte. Vedremo. Conte va avanti solo se c'è fiducia, è il titolo della Stampa, appunto, con le parole del Presidente del Consiglio. Altri giornali fanno appunto altre scelte, questi sono i titoli più politici. Per esempio Il Resto del Carlino, Il Quotidiano Nazionale, la rivolta dei centri commerciali, che dicono: centri storici affollati, perché solo noi dobbiamo stare chiusi nei fine settimana? Il Messaggero se la prende con la beffa del recovery fund per Roma, scompare il progetto importante per la città che Conte aveva promesso 2 mesi fa. Avvenire apre sul vaccino, prova d'umanità, l'allarme delle ONG: nel 2021 sarà possibile immunizzare solo il 10% dei cittadini nei paesi poveri. Il Sole 24 Ore si occupa del cashback, anzi non solo del cashback, e dell'INPS. Cashback in panne, ristori INPS a ostacoli. E quindi il tema sono un po' le cose che non funzionano o che funzionano male. La Verità si concentra sul MES, Conte fa scattare l'eurotrappola, Libero si occupa delle questioni vaticane, perché come sapete vi ha dedicato ampio spazio parlando della vicenda del cardinale Becciu, accusa a Becciu, offesa al re. Il Vaticano cade nel ridicolo, dice Libero, i PM d'Oltretevere usano le farneticanti rivelazioni di una spia per affibbiargli un reato preso dal codice Zanardelli del 1889 assieme ad altri 3. Questi i titoli e le aperture dei giornali che già più o meno vi danno un'idea di quello di cui si parla. Vorrei però iniziare da qualcosa di diverso, e anche oggi vi porto nelle aule di giustizia, e la prima aula di giustizia nella quale vi porto è quell'aula di giustizia di Brescia che sta facendo discutere tutta Italia, è quella della Corte d'Assise che ha deciso che Antonio Gozzini, l'ex docente che il 4 ottobre 2019 uccise a coltellate la moglie Cristina Maioli, 62 anni, nell'appartamento di via Lombroso a Brescia, ebbene, dovesse essere assolto. I giudici, lo racconta bene il Quotidiano Nazionale, hanno accolto in toto le richieste della difesa, peraltro sposando anche le conclusioni del consulente dell'accusa. Qual è il punto? Il punto è che Gozzini sarebbe stato preda, secondo sia il perito dell'accusa che il perito della difesa, di un delirio di gelosia, allucinazioni e disturbo delirante di gelosia, tali da inficiarne la capacità di intendere e di volere all'epoca del delitto. L'avvocato Jacopo Barzellotti dice: questo non è il classico femminicidio nato per volontà di prevaricazione, è l'azione di un uomo in preda a una psicosi di gelosia, alla pazzia. La procura aveva chiesto l'ergastolo, c'è la protesta delle associazioni, per esempio la presidente della rete Dire, Antonella Veltri, ci lascia esterrefatte. Gelosia e depressione non possono essere condizioni legali per compiere impunemente un femminicidio. Vi segnalo su questo fronte il commento di Gianna Fregonara sul Corriere della Sera. Le sentenze hanno una forza propria, sono frutto di un percorso che si spera rigoroso e approfondito, ma la scelta delle parole del processo può renderle urtanti al punto da farcele ritenere inaccettabili. A Brescia l'ottantenne che ha ucciso la moglie è stato appunto assolto perché incapace di intendere e di volere. Quello che non possiamo accettare nel verdetto di ieri è la motivazione del delirio, la gelosia. Sarà stata anche tale da stroncare il suo rapporto con la realtà, da lasciare l'autore dell'uxoricidio ai suoi fantasmi e determinare un irrefrenabile impulso omicida. Ma non siamo in una tragedia shakespeariana. Di mezzo c'è una povera moglie uccisa nel suo letto a coltellate, scrive Gianna Fregonara. E a proposito di aule di giustizia, ce ne sono altre due. Ci sono due casi che ci porta la stampa sulla stessa pagina, che è pagina 19, con uno con Marco Benvenuti da Novara e l'altra con Mauro Zola da Biella. La prima storia riguarda un padre che nel 2016 a Vespolate, piccolo paese del Novarese, 2000 abitanti tra le risaie della Bassa, aveva soffocandolo il figlio autistico e sofferente di epilessia per poi provare a togliersi la vita. Cosa è successo? Che l'uomo aveva appena perso la moglie, stroncata da una lunga malattia. Al figlio Andrea raccontarono i vicini, voleva un mondo di bene, gli dedicava tutto il tempo libero, ma a quel punto era preoccupato di non farcela più, e dunque il giudice ha deciso di assolverlo. La motivazione è sempre quella: incapace di intendere e di volere, dopo aver ucciso il figlio e poi aver assunto alcol e barbiturici e dopo aver spaccato una tubatura di gas tentando il suicidio. E c'è un'altra sentenza che è riportata, come vi dicevo, da Mauro Zola da Biella, sempre sulla stampa, pagina 19, ed è la storia di una donna, si chiama Christine Texier, 74 anni. Anche in questo caso è la storia di una malattia, la malattia degenerativa del marito. È una donna francese, il marito anche francese, erano andati a vivere in una casa nelle campagne del Biellese, a Magnano, arrampicato sulle pendici del Serra. Erano due persone appassionate di armi. Un giorno l'uomo, appunto colpito da questa malattia degenerativa, chiede alla moglie di portargli la beretta carica che aveva in casa. La moglie gliela porta, poi si allontana e lui si toglie la vita. Ebbene, la donna, Christine Texier, 74 anni appunto, è stata condannata a 2 anni per aiuto al suicidio. Una pausa. 24 Mattino. Abbiamo votato un referendum. Questo referendum ha avuto un impatto molto forte sull'assetto istituzionale. Non c'è una legge elettorale, non si può andare a votare. Questo è molto chiaro. Questo non dobbiamo dimenticarcelo mai. A proposito della partita e del quarto uomo che ha indicato come nero un altro, e se fosse stato biondo o rosso o vestito di viola e identificato come tale, nessuno avrebbe avuto niente da dire. C'è da dire qualche cosa se uno è nero? Simone, questo benedetto vaccino si porterà via sia il Covid che Conte. Perché, dice l'ascoltatore, quando finisce la pandemia finisce anche il dominio del Presidente del Consiglio. Va bene, queste sono le vostre opinioni. Torneremo a parlare di politica ovviamente più avanti nel corso della trasmissione, lo faremo con Paolo Mieli, sarà con noi Carlo Cottarelli, poi ci sarà la ministra Fabiana Dadone, perché vi comunico che lo sciopero, il famoso sciopero del pubblico impiego, ha avuto un'adesione intorno al 5%. 5%, ok, proclamato dalle tre principali sigle sindacali. Sarà con noi la ministra Fabiana Dadone, alla quale magari un paio di domande di politica anche le faremo. E però fatemi partire in questa sezione della rassegna stampa dai diritti umani, perché nei giorni scorsi abbiamo parlato un po' di questo incontro tra il presidente egiziano Al-Sisi ed Emmanuel Macron. Al-Sisi arrivato a Parigi nei giorni nei quali, tra l'altro, veniva rinnovata la carcerazione per Patrick Zaki. Ebbene, si è detto, beh, una mossa di realpolitik da parte di Macron, che comunque ha detto sì, parleremo di diritti umani, però questo non fermerà gli affari, eccetera, eccetera. Il problema è che l'Eliseo ha nascosto una parte, la presidenza francese ha nascosto una parte delle informazioni su questa visita, che però la presidenza egiziana ha diffuso con tanto di immagini. Tutto questo è stato ripreso ovviamente dai media francesi. Ci si dedica il Corriere della Sera con una paginata nella quale ci fa sapere che Al-Sisi, che ricordiamo in Egitto si calcola che vi siano circa 60.000 detenuti politici, Al-Sisi ha incassato anche la Legion d'Onore, che è la massima onorificenza francese, la cerimonia nascosta dall'Eliseo. Le immagini sono state trasmesse dalla TV egiziana e sono state appunto rilanciate da Parigi. Le immagini di quella imbarazzante realtà alternativa, racconta Stefano Montefiori, riservata al pubblico egiziano, sono finite anche davanti agli occhi degli autori della trasmissione francese Quotidienne, che hanno consultato il sito della presidenza egiziana. Il conduttore Yann Barthès, con il solito tono beffardo, ha spiegato che oggi per la prima volta siamo dovuti andare sul sito di un regime autoritario per sapere cosa succedeva all'Eliseo. Ecco così l'arrivo di Al-Sisi sul tappeto rosso dell'Eliseo, accolto da Emmanuel e Brigitte Macron davanti alle telecamere egiziane ma non francesi. E poi, cosa volete ancora? Forse le immagini della Francia che gli conferisce la Legion d'Onore? Chiede perfido il conduttore agli spettatori francesi. Impossibile, direte voi, e avete ragione, perché state per vedere non la Legion d'Onore ma la Gran Croce della Legion d'Onore, il grado più alto, attribuita a tutti i leader in visita di Stato e quindi anche ad Al-Sisi. Nonostante la ricerca di una politica comune europea, scrive Montefiori, l'Italia e l'Egitto chiede ancora giustizia per il caso Regeni. La Francia invece mantiene quello che Macron definisce un dialogo esigente. Chiosa Stefano Montefiori, esigente ma non troppo. E a proposito di diritti umani, guardate, ne abbiamo parlato colpevolmente poco, però molto ne ha parlato Giampaolo Musumeci di questa vicenda, e però fatemi andare su Avvenire a pagina 16 per tirare un attimo le fila e molto rapidamente. È una questione che a mio giudizio dovremmo tenere un po' più presente, su questo faccio anche autocritica, la vicenda etiope, dove la responsabile ONU dei diritti umani, Michelle Bachelet, ieri ha detto che la situazione è estremamente preoccupante e fluida e ci sono nel Tigray abusi fuori controllo. Cosa è successo? Minimo di riassunto: dopo due anni di tensioni, il premier etiope Abiy Ahmed, lo ricordiamo, premio Nobel per la pace, ha iniziato il 4 novembre l'offensiva contro il partito al potere nel Tigray, che fino al 2017 governava. Il 29 novembre l'esercito ha conquistato il capoluogo capoluogo Macallè, da 40 giorni nel Tigray, in questa regione etiope, c'è un sostanziale blackout informativo con l'esercito che non permette di accedere, internet e telefoni bloccati, e quindi non si sa che cosa succeda all'interno. Vice ministra degli esteri Del Re ha detto che l'Italia è pronta a fornire aiuti, ma appunto l'ingresso è ancora vietato nella regione agli operatori umanitari, e merito ad Avvenire a pagina 16 che ce lo segnala. Dai diritti umani passiamo ai diritti delle persone con disabilità, in particolare gli studenti. Perché ci comunica a pagina 8 il Messaggero, tirando fuori i dati del rapporto dell'Istat sull'anno scolastico 2019-2020 per gli studenti con disabilità, che per il 25% dei disabili non ci sono state lezioni in didattica a distanza e ci sono state postazioni fantasma. Sono loro, scrive Lorena Loiacono, che hanno subito i problemi peggiori con le lezioni online. Gli studenti disabili, quei ragazzi che più di altri andrebbero sostenuti nel loro percorso, invece con la didattica a distanza sono stati esclusi da qualunque forma di apprendimento. Sono 70.000 gli alunni che non hanno potuto fare lezione per mesi, vale a dire il 23% del totale dei ragazzi con disabilità iscritti ad un percorso di studi. Praticamente uno su quattro. È il rapporto Istat all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità per l'anno scolastico 2019-2020, nel quale si mette in luce un altro aspetto allarmante. Se siamo al 23% a livello nazionale, siamo al 29% di esclusione dagli studi per il mezzogiorno, là dove le famiglie sono più in difficoltà. E mentre gli studenti disabili, un po' tutti gli studenti, ma soprattutto gli studenti disabili sono alle prese con questo problema, a Cervinia si scia. Ragazzi, a Cervinia si scia. Ieri vi ho raccontato di queste immagini pixelate della webcam nella quale la gente si ammassa davanti a una seggiovia, e qua abbiamo una toppa che è peggio del buco, perché a fronte delle contestazioni ci racconta Manila Alfano sul Giornale a pagina 13, gli impianti replicano: sono solo problemi di privacy, con una webcam che riprende dall'alto con un'immagine super sgranata ci sarebbero problemi di privacy. Questa ce la devono spiegare meglio. Erano tutti atleti, ci dice, cioè questa massa di, per la foto del 3 dicembre, una massa di persone davanti alla seggiovia, erano tutti atleti a quanto pare. Una foto ingrandita fino a sfocare e nascondere la vergogna, gente in coda che si starebbe accalcando per farsi una bella sciata. Meglio cancellare per non attirare ulteriori polemiche. Peccato appunto che la pezza si starebbe rivelando peggiore del buco. Il comprensorio valdostano è aperto da inizio novembre per ospitare gli allenamenti degli atleti di cosiddetto interesse nazionale. E quindi basta iscriversi a una gara, fare la tessera agonistica, iscriversi ad una gara e diventi agonista e vai a sciare. Questa è più o meno la sostanza, come più o meno si è aggirata la regola. La platea degli agonisti che possono frequentare le piste da sci si è ampliata nelle ultime settimane sulla base di un aggiornamento delle disposizioni della FISI. Tant'è vero che il 3 dicembre scorso c'era questa immagine incredibile che veniva pubblicata che è circolata molto in rete, risaliva al 3 dicembre, e poi l'8 dicembre l'immagine della webcam era improvvisamente pixelata per rispetto della privacy degli atleti. E visto che siamo sulla privacy, fatemi chiudere, adesso andremo dal nostro direttore Fabio Tamburini, e visto che siamo sul Sole 24 Ore, andiamo da Alessandro Galimberti sul Sole 24 Ore, il quale ci racconta, nelle more di questa vicenda dell'app per il cashback, che tanti problemi ha creato e tante perplessità ha creato, c'è tutta la questione della privacy che è stata francamente poco affrontata. Scrive Galimberti: a differenza della cugina Immuni, nata anch'essa in periodo pandemico, l'app di cashback Io non è stata accompagnata al debutto da preoccupazioni polemiche diffuse in materia di privacy. Eppure, dal punto di vista tecnico e giuridico, i problemi di trattamento e di gestione del dato sensibile di milioni di italiani sono del tutto simili, se non addirittura sovrapponibili. A dirlo è lo stesso garante della privacy, anche perché una parte di questi dati è previsto che venga trasferito negli Stati Uniti, dove, come sappiamo, le norme sulla privacy sono più lasche, e non si sa esattamente che tipo di dati e a che scopo vengano trasferiti. E ve lo ricordo, sono i dati degli acquisti, eh? Sono quindi quelli che tracciano quali sono i nostri interessi, cosa ci piace, quali medicine compriamo, eccetera, eccetera. Sarebbe forse da tener presente. Traffico. Mattino. Ed eccoci col nostro direttore, direttore anche del Sole 24 Ore, dell'agenzia di stampa Radio Cor, Fabio Tamburini. Ciao Fabio, buongiorno, buon giovedì, eccoci qua. Eccoci. Buongiorno a tutti, allora, compatibilmente. Sempre compatibilmente. Allora, col Sole 24 Ore avete deciso oggi, Fabio, di aprire e di fare, di dedicare le prime pagine del quotidiano a quello che non sta andando. È da una parte il cashback, dall'altra i ristori INPS che sono un po' rallentati e sono una vera e propria babele. Oggi il Sole 24 Ore pubblica uno schema che, al quale non ho avuto quasi il coraggio di approcciarmi, Fabio, perché è di una complessità enorme. Ma francamente non se ne può più, la semplicità è difficile a farsi e qui se ne ha una assoluta dimostrazione. Partiamo dal cashback, è una buona idea perché in Italia si usa troppo il contante e poco le carte di credito, il bancomat, e quindi tutto quello che può essere fatto per incentivare questa buona abitudine è fatto positivo, però poi bisogna essere capaci di passare dal dire al fare. Insomma, ma è possibile che non si è in grado di fare operazioni di questo tipo senza flop? Abbiamo visto i click day dell'INPS, è stato piuttosto penoso, abbiamo visto i click day per le biciclette, anche lì seconda figuraccia. E adesso è andato in tilt il cashback, l'app Io non si riesce a caricare. Insomma, un disastro dietro l'altro. Ma insomma, qui siamo, non è che si sta scalando l'Everest senza bombole di ossigeno. In tutto il mondo queste formule di queste iniziative vanno in porto. Le società private le fanno e non succede mai nessun problema, non accade mai nessun problema, nessun inconveniente, se non molto limitate. Qui invece ogni volta che si fa un'iniziativa del genere il caos è totale. Ma calcolate la perdita di tempo di tutti gli italiani dietro a queste vicende, ore e ore perse, buttate nel cestino, no, non se ne può più. Ugualmente le storie dell'INPS, ci vuole Archimede Pitagorico per capirci qualcosa. Fabio, ti vorrei portare, ecco, a questo punto sulla parte politica. Hai visto l'incrementarsi delle tensioni in questi giorni intorno alla task force proposta dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, con Italia Viva che minaccia a questo punto quasi di andarsene dal governo. Prevedibile forse un accordo, sì, che un accordo si troverà. Come la vedi tu? La vedo che sono tutti attaccati alla poltrona con Vina Villa, tanta il cane che abbaia non morde, le dimostrazioni sono ormai quotidiane. I 5 Stelle non volevano il MES, una parte di loro minacciava fuoco e fiamme, poi alla fine se lo sono votati. Ugualmente Italia Viva cerca di trovare uno spazio, però anche lì attenzione, quando la tensione arriva ai massimi il rischio di andare a casa. Mattarella, il Presidente della Repubblica, ha detto chiaramente che ci sarebbero state le elezioni subito e lì rapida marcia indietro da parte di tutti. Insomma, qui prevale l'istinto della conservazione della specie. È chiaro che le elezioni significa per molti parlamentari andare a casa e di conseguenza guai. Quindi abbaiare sì, ma dopo mordere no. Tra l'altro nel frattempo oggi il Presidente del Consiglio è a Bruxelles, finalmente pare che si sia sbloccata la questione con Polonia e Ungheria, o quantomeno siamo vicini. Anche qui non pigliamoci in giro, Polonia e Ungheria hanno bisogno dell'Europa, senza l'Europa vanno a fondo, perché noi italiani siamo contributori europei, che significa che diamo di più di quanto riceviamo, somme davvero molto elevate, ma polacchi e ungheresi sono prenditori dall'Europa, vengono finanziati molto di più di quanto questi due stati danno all'Europa. Sono pilleri, sono quattrini, e quindi alla fine anche per loro coda bassa è andare se vogliono i fondi europei, se no li perdono. Fabio, a chiudere, c'è il suo interlocutore ha deciso di dedicare la fotonotizia a Bill Gates, 250 milioni per i vaccini, l'uomo al centro praticamente di tutte le teorie del complotto degli ultimi sei mesi e l'ultimo anno, fornisce 250 milioni per i vaccini. Devo dire chapeau, io credo, non, penso che le teorie dei complotti lasciano il tempo che trovano, finché non ci sono prove, qui di prove non se ne vede neanche l'ombra. Chapeau, perché alla fine esercita la virtù della generosità. E diciamoci la verità, tra i ricchi la virtù della generosità non è molto diffusa. E mi fermo qui, per carità di patria. Caro Fabio, ci risentiamo giovedì prossimo naturalmente, ti auguro una buona giornata. Buona giornata Fabio Tamburini, direttore Radio 24 e del Sole 24 Ore dell'agenzia di stampa Radio Core. Fabio, ciao. Saluto a tutti. Noi ci fermiamo qua, c'è GR24, ci ritroviamo subito dopo con Paolo Mieli, faremo il consueto punto della giornata dopo il giornale radio, poi ci risentiremo subito dopo, parleremo con Carlo Cottarelli dei piani per il recovery, sarà con noi la ministra Fabiana Dadone, come vi dicevo, all'indomani dello sciopero del pubblico impiego che evidentemente non è andato benissimo, le cifre oscillano tra il 4 e il 5% di partecipazione allo sciopero. GR, a dopo.